Siamo partiti con le elezioni, come saprete, e il gruppo ha continuato a vederci, a lavorare a Bologna come in tutta Italia. Abbiamo deciso di fare questa festa per dare continuità e spazio a un dibattito politico che per noi era essenziale, dove altre forze di sinistra in questi mesi non si sono più viste. Noi abbiamo continuato a macinare per strada, nei movimenti, dentro alle piazze, e abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci non soltanto per fare festa, per mangiare, per stare insieme ai concerti, ma anche per dibattiti politici che tutti i giorni ci saranno. Questa festa avviene in un momento un po' particolare nel nostro paese, in Italia, dal punto di vista politico. C'è chi dice che la sinistra è sparita. Quali sono appunto le riflessioni che fate sull'attuale fase politica? Intanto noi siamo partiti con un manifesto politico per una festa di potere al popolo, per una festa comunque di una formazione politica, che è già un passo anomalo, nel senso che non ci si ritrova solo per fare festa, ma appunto con la testa impegnata a quello che ci serve per il futuro. Attualmente pensiamo che effettivamente non sia poi così sbagliato dire che la sinistra è morta, nel senso che se si ha intenzione di fare opposizione a un governo razzista come quello di Lega e 5 Stelle, riproponendo le logiche dell'anti-berlusconismo senza criticare quello che è il percorso della sinistra, penso che sia anche giusto che finisca qui questa storia. Se si ha invece intenzione di ripartire da un punto di vista di classe e di indipendenza politica di quello che si fa, allora è l'occasione per ripartire con un'opposizione da quel punto di vista. Veniamo nei dettagli della festa, perché oltre alla cucina popolare, come già anticipavi, ci saranno concerti e anche dibattiti. Sono 4 giorni e ci sarebbero voluti anche 2 settimane per sviscerare tutti i temi che ci sono sul campo, però dobbiamo accontentarci di 4 giorni con dibattiti che partono appunto da giovedì sul tema ambientale, raccordando e raccontando le storie di resistenza popolare che partono appunto dall'autorappresentazione cittadina come quella dei Notav, Notap, ma troveremo spazio anche per le resistenze locali, quindi per quelle esperienze di resistenza ambientale che ci sono nella nostra regione, soprattutto ricordando che il tema ambientale deve stare al primo posto, perché è la salute della gente che viviamo nell'area della pianura padana, che è la più inquinata d'Europa. Si prosegue poi con venerdì, in cui si mette al centro le esperienze di solidarietà sociale, di lotta per i diritti, il welfare, la casa, quindi anche lì con ospiti ed esperienze da tutta Italia. Si prosegue sabato con un tema che per noi è centrale, che è quello dell'Unione Europea, dove tra l'altro tra non molto ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, ma dove ci sembra più che mai sia necessario un approfondimento e comprendere bene che cosa sarà questa Unione Europea e se è riformabile o meno. Domenica la dedichiamo invece a una grande assemblea plenaria in cui parliamo tra militanti, tra compagni di potere al popolo e tra chi vorrà intervenire in quell'assemblea per porre i suoi quesiti, per dibattere con noi e per aprire, diciamo, la mente a quello che è potere al popolo oggi. Invece, per quanto riguarda i momenti più ludici, la musica? La musica abbiamo tutti i giorni in programmazione dei concerti, a partire appunto da giovedì con DJ set sia giovedì che venerdì. Venerdì in particolare ci saranno lo Spoglio Sermano, un gruppo che fa cumbia, suonato appunto in diretta. Sabato invece ci sarà Capovilla con il suo progetto One Dimensional Man, e domenica andremo in conclusione, per non fare troppo tardi, con un programma più classico di musica strumentale. Come fare per arrivare, insomma, e anche per scoprire il programma? Allora, per scoprire il programma si può andare sulla pagina Facebook di Potere al Popolo Bologna e Provincia, viene rimandato anche sulla pagina nazionale di Potere al Popolo. Per quel che riguarda l'arrivo alla festa, ricordiamo appunto da giovedì alle ore 18, c'è l'autobus per l'andata alla festa, che si può raggiungere alla fermata con l'autobus 93 da Piazza dei Martiri, con fermata a Quarto Centro. Ci si mette abbastanza poco e una volta arrivati lì il più è fatto. Per il ritorno assicuriamo noi un po' di passaggi verso il centro, in modo che nessuno venga lasciato lì a dormire, e eventualmente un passaggio verso il capolinea del 25. Comunque, scrivendo alla pagina di Potere al Popolo Bologna e Provincia, vi diamo tutti i riferimenti e vi diamo tutta la logistica necessaria.